La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo giovedì 25 di settembre siamo in diretta a 16.37, primi 30 secondi dagli studi di Milano di Radio 24. Grazie a voi tutti che continuate a scrivere, continuate a farlo alla versione di Oscar chiocciola radio24.it. Subito l'argomento del giorno, è un tema di cui si parla proprio in queste ore alla Camera dei Deputati, perché è ripreso l'esame di un progetto di legge volto a tornare alle chiusure degli esercizi commerciali, cioè dei negozi, cioè volto a stabilire un numero fisso di giornate nel calendario annuale per quali negozi devono stare chiusi. Quindi un passo indietro rispetto alla liberalizzazione che è avvenuta anni fa, che iniziò con il pacchetto Bersani, quando Bersani era ministro dell'industria. Una misura rispetto alla quale, lo vedremo nel tempo, molte regioni si sono appellate invocando le loro competenze alla Corte Costituzionale, quindi un mucchio di giurisprudenza costituzionale, autorità antitrust accumulata e così via. Adesso il Parlamento in questa legislatura ha ripreso in mano, con una vasta convergenza di sostegni politici, sia nella maggioranza nel governo Renzi sia nel Movimento 5 Stelle, per tornare alle chiusure obbligate per legge. Oggi il sistema è un sistema che consente di decidere ciascuno l'apertura e la chiusura. Qui si torna invece a una logica coattiva, per cui lo Stato decide lui, e le ragioni, vedremo, sono tante. Ma per capirci abbiamo un file, un minuto, sentiamo un intervenuto proprio poche ore fa alla Camera dei Deputati, è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, si chiama Ivan Della Valle, sentiamolo. Colgo l'occasione di questo emendamento per sfatare una delle più grandi balle che sono state dette su questo argomento, che sarebbe quello che le liberalizzazioni selvagge di cui stiamo parlando senza nessun limite, ce l'avrebbe chiesto l'Europa. Bene, Germania, domenica e festivo chiuso tranne 10 deroghe, vuol dire 10 deroghe vuol dire che noi qua stiamo parlando di 6 chiusure, mentre loro hanno al massimo 10 aperture l'anno. Domenica e festivo in Germania sono chiusi, tranne 10 deroghe. Francia, domenica e festivo chiusi. Danimarca, domenica e festivo chiusi. Austria, domenica e festivo chiusi, deroga alle chiusure solo per le zone turistiche. Belgio, deroga alle chiusure solo 9 domeniche l'anno. Questo era quello che ci chiedeva l'Europa. Solo noi, solo l'Italia ha recepito quello che ci chiedeva l'Europa in questo modo, facendo delle liberalizzazioni selvagge non tenendo conto di nulla. Effettivamente, onorevole Della Valle, è vero, non è che c'è un regolamento europeo che dice liberalizzazione assoluta, le regolamentazioni sono diverse a livello nazionale, ed è vero che nei paesi, soprattutto nei paesi nordici, come sa poi chi gira un po' l'Europa, effettivamente i regimi di chiusura sono molto più ferri dei nostri, per così dire. Detto questo, all'Italia di oggi, al calo dei consumi di oggi e soprattutto alla luce di che cosa abbiamo capito in questi anni in cui invece gli orari erano liberalizzati, è stato un bene? È un bene? Perché tornare a chiudere? È la politica che deve decidere? Allora, io innanzitutto chiedo a voi di telefonare, sia che abbiate un negozio, sia che siate semplicemente dei consumatori, perché io difendo la piena libertà, ma questa non è una grande scoperta, per così dire, perché penso che sia per gli esercenti, sia per i consumatori, avere la maggior possibilità, ciascuno secondo le proprie convenienze, stili di vita, tempi di lavoro, cure parentali, eccetera, eccetera, è ovvio che è meglio. Ci sono dei problemi che dobbiamo però affrontare. Il primo riguarda l'impatto sulla famiglia, che stamattina è stata citatissima in aula alla Camera, dicendo no, perché la domenica, preserviamo la domenica perché bisogna stare con la famiglia. Il secondo è un problema anche dei dipendenti, perché ovviamente i piccoli esercizi dicono a noi, se stiamo aperti per fare concorrenza ai nostri concorrenti, però abbiamo molto meno margine della grande distribuzione, ovviamente abbiamo un onere maggiore. E poi c'è un problema di competenze, perché, e ho finito la mia introduzione, mentre la Camera sta dibattendo il progetto di legge, comunque altre 5 regioni, sapete che secondo la nostra Costituzione 5 regioni possono chiedere il referendum abrogativo, già hanno chiesto per i fatti loro, chiedono per i fatti loro, si accingono a chiedere per i fatti loro un referendum abrogativo contro la norma del 2011 che aveva liberalizzato. Tra queste c'è la Lombardia, il Veneto, l'Abruzzo, sono tutte regioni di destra, per così dire, quindi questo è un tema veramente trasversale, perché la politica italiana da destra a sinistra al 5 Stelle è convinta che bisogna richiudere. Allora, aspettando le vostre telefonate e i vostri sms, abbiamo con noi per parlarne il vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, lei ha pubblicato un paper, uno studio dedicato a questo. Vogliamo riepilogare un secondo come ci siamo arrivati, quando a questa liberalizzazione e come funziona davvero rispetto alla proposta di legge che stanno esaminando in Parlamento? Siamo arrivati molto gradualmente, da una quindicina di anni abbiamo iniziato a deregolare il commercio, le prime misure le aveva entro di deregolazione, nel senso di restituzione della libertà di scegliere come, cosa e quando vendere, le aveva introdotte Bersani alla fine degli anni 90, poi gradualmente anche con un enorme sforzo che ha appena richiamato della giurisprudenza costituzionale e anche dell'antitrust, gradualmente abbiamo acquisito la consapevolezza che non c'è motivo per cui non debba essere il singolo esercente a decidere quando stare aperto, quando stare chiuso e se stare più aperto o meno aperto. E fino ad arrivare al 2011 a una norma sperimentale che apriva appunto la determinazione degli orari alla scelta del negoziante. La norma dall'ultimo governo Berlusconi al governo Monti, da sperimentale che era per le città d'arte e vocazione turistica, è diventata a carattere generale. Per cui da 2 anni gli esercenti possono scegliere una delle loro qualità con cui svolgono il proprio lavoro, cioè l'orario, che è un aspetto del servizio che svolgono alla clientela. Oggi si torna alla Camera, si sta tornando indietro, si sta proprio volendo abrogare una delle pochissime, se non l'unica definitiva liberalizzazione che era stata fatta negli ultimi anni in Italia, con una reintroduzione di alcuni obblighi di chiusura per 12 giorni all'anno. Nella formulazione iniziale c'era anche la chiusura, la mezza chiusura infrasettimanale, questa nel testo di 2 giorni fa è stata tolta. Sono rimaste 12 chiusure l'anno per le quali il singolo esercente può scegliere di derogare per la metà, cioè può scegliere di stare chiuso soltanto per 6 su 12. Questo è l'aspetto che riguarda soltanto l'obbligo di chiusura degli esercizi. Poi la legge in realtà reintroduce vincoli e tanta burocrazia, prevedendo per esempio piani, accordi territoriali, prevedendo un potere del sindaco, non del consiglio comunale, del sindaco di regolare in particolari ipotesi la chiusura degli esercizi, prevedendo un fondo per le medie, piccole e micro imprese che qualcuno discrezionalmente a livello locale dovrà decidere come distribuire, quindi introducendo una massa di burocrazia e di discrezionalità amministrativa collaterale rispetto a queste chiusure obbligatorie in alcuni giorni dell'anno che corrispondono ad alcune festività nazionali. Ora, nel frattempo, poiché le regioni avevano fatto le impugnative e così via, ricordiamo anche almeno alcuni dei principi fondamentali che nelle sue pronunce la Corte Costituzionale ha messo sul tavolo e di cui sarebbe bene che poi la politica tenesse conto, perché visto che poi tanto si torna alla Corte Costituzionale ritualmente. Allora, alcuni di questi principi e anche che cosa l'antitrust ha detto in alcune occasioni, la risposta di Serena Sileoni, per darvi un quadro insomma di quello che c'è sul tavolo, tra 60 secondi, perché prima abbiamo l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo parlando del progetto di legge di cui si discute alla Camera, tornare alle chiusure obbligatorie per gli esercizi commerciali, dalla liberalizzazione a cui eravamo arrivate per tappe, partendo da 15 anni fino alla norma non più sperimentale ma aperta a tutti, quindi piena libertà di scelta degli orari del 2011. Devo dire che non è un sondaggio, perché non è un campione rappresentativo, ma fino a questo momento della raffica di SMS pervenuti, tranne tre che sono contrari alla riregolamentazione e quindi difendono il regime attuale di tutela e liberalizzazione, per il resto, quindi la stragrande maggioranza, sono tutti favorevoli alle chiusure. C'è chi dice tenere aperto aumenta i costi ai negozi, ma tanto il problema dei maggiori consumi si risolve solo con più soldi in tasca al consumatore, non è che io la domenica ho più soldi di quanto ne avessi il sabato. Sì, il problema è come organizzare il proprio tempo di lavoro, dico io, ma questo conta poco. La stragrande maggioranza ha sentito i ragionamenti del parlamentare 5 Stelle e si dichiara totalmente d'accordo. C'è chi chiede che vengano chiusi altrettanto, se non di più, anche i grandi centri commerciali. Prendo atto che sono in minoranza. Non so bene quanto non siano delle reazioni istintive quelle che vi portano a dire che è meglio tenere chiuso. Però, allora, che cosa ha detto la Corte Costituzionale dell'Antitrust in questi anni, Serena Sileoni? La Corte ha detto una cosa molto semplice, cioè che la liberalizzazione, la Corte intende la liberalizzazione come togliere gli ostacoli che impediscono il libero scambio. Allora, intesa come appunto togliere questi ostacoli che impediscono alle persone di fare scambio, la liberalizzazione fa bene all'economia, ma non solo fa bene all'economia, e lo ha detto chiaramente la Corte, altrettanto chiaramente ha detto che se fa bene all'economia fa bene anche all'erario, quindi fa bene alle entrate fiscali, ovviamente, perché più diciamo l'economia è in buona salute, più si produce, più si pagano le tasse. Quindi addirittura ha detto che è legittimo che rientri nelle valutazioni del rispetto del patto di stabilità che hanno gli enti locali con lo Stato, che è il loro vincolo di bilancio, fa bene alla valutazione del corretto rispetto di questo patto il fatto che le regioni e gli enti locali rimuovano ostacoli al libero scambio. E l'antitrust? E l'antitrust ha detto, se per caso diciamo il concetto di liberalizzazione della Corte potesse essere vago e ampiamente interpretato, l'antitrust ha detto che la regolazione degli orari è proprio uno di quegli ostacoli, di quelle norme irragionevoli che costituiscono ostacolo alla concorrenza, perché qui, e questo il punto sollevato anche dal deputato della Valle è corretto, non è una questione di legittimità, non è che violiamo una regola europea, è una scelta politica. È una scelta politica. No, quindi c'è da vedere perché si fa quella scelta. L'antitrust dice che non c'è motivo di fare una scelta simile dal punto di vista della ragionevolezza della mi pare che oggi i politici non siano proprio molto propensi a dare retta alla Corte Costituzionale all'antitrust. Sentiamo rapidamente alcuni dei nostri ascoltatori. Michele da Monza, prego Michele. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo dire, ho sentito prima un deputato... Sì, l'onorevole della Valle dei 5 Stelle. Sì, mi dispiace questa cosa perché dalla mia esperienza le posso confermare che sia in Germania sia in Olanda, io tra l'altro frequento sin dall'86 questa zona tra Colonia e quello che è l'Olanda, che confina, che dopo la sera, diciamo gli orari ufficiali, ci sono una miriade di negozi genericamente chiamati kiosk, esatto, che vendono di tutto e di più, sia durante i festivi che i giorni normali, sia soprattutto di sera e di notte, perché una città che ha gente che lavora con vari turni di lavoro, mi sembra anche giusto che alle 10 di sera, alle 11 ha voglia di fare la spesa perché ha finito il turno, va in questi negozi, fa la spesa, compra tutto quello che occorre. Quindi non capisco da dove ha tirato fuori queste statistiche che dice no, che... No, non sono statistiche, il problema è che in Germania, poi varia da land a land, anche da municipalità a municipalità, ci sono delle norme generali per gli esercizi di commercio, quelli delle licenze ordinarie, mentre quelle di cui parla lei, che sono diffusissime ed è vero che si fa la spesa 24 ore, hanno un altro tipo di licenza. Però è vero quello che diceva il parlamentare del Movimento 5 Stelle, anche se è un pezzo della realtà, perché poi c'è l'altra di cui parla lei, che quelli di licenza ordinaria per diverse tipologie merceologica hanno degli orari più stretti di quelli italiani. Questo è vero in quasi tutti i lender. Però poi ci sono quelli che dice lei, che sono quindi un'offerta specializzata, per così dire. Sentiamo Franco da Torino che dice: lei è pro chiusura o per la liberalizzazione, Franco? Io sono a favore della chiusura, perché secondo me bisogna ritornare un attimino con i piedi per terra. Il commercio non è stato favorito perché fondamentalmente, così come è già stato detto, i costi sono aumentati per chi gestisce le attività, perché i dipendenti devono essere pagati. Nel frattempo le domeniche sono state utilizzate per far lavorare fondamentalmente le persone, dandogli senza nessun tipo di remunerazione festiva, perché oggi come oggi il lavoratore che lavora di domenica non ha più la paga, tra virgolette, per ciò che riguarda la giornata festiva, perché le viene data poi durante la settimana. Benissimo, quindi mi è chiaro perché, ma lei che mestiere fa? Posso chiederglielo, Franco? Io faccio un imprenditore, io fondamentalmente non ci lavoro nei centri commerciali, e fondamentalmente io di vedere centri commerciali qua proprio vicino a Torino, ce n'è uno dove su 365 giorni è aperto dalle 9 del mattino alle 10 di sera ed è chiuso due giorni all'anno. Sì, ho capito, però per lei questo è un male, ma io ho un'opinione diversa. Però detto questo capisco che c'è un ragionamento sui costi dei piccoli esercizi. Manfredo da Firenze, lei come la pensa? Ciao Oscar, maestro ti chiamo. Oscar e basta, vai. Sei il mio maestro personale, io ti supero a sinistra o a destra. Allora, lo Stato è laico, la domenica è un giorno come tutti gli altri. Per me si dovrebbe lavorare 7 giorni su 7, ci sono 52 domeniche, 52 sabati, il dipendente ha diritto quindi a 104 giorni di ferie, metà li gestisce lui, metà li gestisce il datore di lavoro, e si lavora 7 su 7, perché io che ho una piccolissima attività davanti all'università e sono pieno di debiti, il sabato e domenica sto chiuso perché non ho lavoro, se ci fosse lavoro starei aperto. Quindi basta con le imposizioni di uno Stato clericale, con la domenica che è sacra. Va bene Manfredo, è chiarissimo cosa hai detto. Serena Sileoni, negli ultimi 30 secondi, ma lei personalmente come la pensa? Ma io penso che scelgo sempre la libertà alla costrizione, e siccome qui si sta parlando non di obbligare a stare aperti, ma di non obbligare a stare chiusi, e quindi a scegliere di stare aperti quando si vuole, magari anche meno rispetto a quello che si faceva prima, mi pare che sia molto più ragionevole. Anche secondo me, non obbligare nessuno è una cosa che a me sembra molto preferibile. Però Serena Sileoni, pare che siamo in minoranza e il Parlamento mi pare che esprima abbastanza questa voglia di tenere chiuso per legge. Aperto! Continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.